Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Venerdì 24 settembre, benvenuti, bentornati su Liberi Dentro Eduradio TV, questo programma che, come sapete, fa da ponte tra carcere e città. Io sono Caterina Bombarda e qui con me c'è Antonella Cortese. Ciao Antonella. Buongiorno a tutti e buon quasi fine settimana. Esatto, e siamo entrambe alla cura e alla conduzione di questo programma che va in onda, come sapete, su Radio Città Fugico, Teletricolore e Lepida TV, canale 118. Oggi per voi ho una notizia: sicurezza, nessuna emergenza, ma non rallenta la violenza di genere. È un articolo pubblicato sul Manifesto e anche su Associazione Antigone, perché a firmarlo è il presidente dell'associazione Patrizio Gonnella, e sono stati pubblicati i dati del Viminale, un'istantanea che fa la tara a propaganda e polemiche e interpretazioni varie, però i numeri non mentono quasi mai e calano del 7,1% in base ai dati del Viminale i reati nell'ultimo anno. Sto parlando dei dati contenuti nel dossier del Viminale pubblicato ogni anno in occasione della tradizionale riunione del 15 d'agosto del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ma sentiamo cosa ne dice Patrizio Gonnella. Lui dice che, stando ai dati, sembra che l'Italia sia un paese che non ha un'emergenza criminale. I dati lo confermano in modo inequivoco: gli omicidi sono calati da 295 a 276, quindi quasi del 7%, e siamo a un tasso di omicidi pari allo 0,46 ogni 100.000 abitanti, e sono tra i tassi più bassi d'Europa. Sì, questo è vero, però c'è un dato allarmante, ne abbiamo parlato anche ultimamente in occasione dell'omicidio di Chiara: il femminicidio è molto presente ancora. Sì, gli omicidi calano nonostante sia ancora troppo alta la quota di donne assassinate, e sono ben 105 donne uccise quest'anno, dal 1 agosto 2020 al 31 luglio 2021. E questo significa che 88 omicidi sono maturati in ambito familiare o affettivo e 62 donne sono state uccise dal partner o dall'ex partner. I femminicidi sono in Italia al 38% del totale degli omicidi volontari commessi nell'ultimo anno. Aumentano dello 0,2% le denunce per stalking, che sono più di 15.000 nell'ultimo anno, e nell'ambito dei provvedimenti assunti sono oltre 2.500 gli ammonimenti del questore e gli allontanamenti del partner o della partner stalkerante. Senti, Caterina, e che cosa puoi dire sugli altri dati? Ma allora, guardando alle statistiche criminali, se vogliamo, possiamo invece osservare che sono diminuiti significativamente negli ultimi 20 anni gli omicidi riconducibili alla criminalità organizzata, alla criminalità comune o quelli avvenuti a seguito di furti o rapine. Sempre nell'ultimo anno sono decresciuti i furti, meno 12,8% dicono i dati, e le rapine, meno 3,8%. Nonostante l'anno precedente sia stato quello con meno furti in assoluto, perché, come sapete, abbiamo avuto il Covid, quindi in qualche modo ha calato anche questo dato di criminalità. Dice Gonnella: abbiamo un codice penale, che è ancora quello rocco del 1930, che è di evidente impronta autoritaria, e non riusciamo a modificarlo in sintonia con i principi costituzionali della offensività e della ragionevolezza. E continuiamo ad innalzare le pene per reati contro il patrimonio, fino a prevedere pene per il furto in appartamento pari a quelle previste per reati contro la persona, per esempio. Trasformiamo i consumatori di droghe in pericolosi criminali. Legittimiamo il ricorso alle armi per difendersi dai nemici inesistenti. Sottolinea Gonnella, andrebbe verificato tra gli autori di femminicidi quanti sono quelli che ammazzano con un'arma legalmente posseduta. Caterina, ma cosa ci dicono questi numeri del Viminale? Questi numeri ci dicono almeno tre cose. In primo luogo, che non esiste un'emergenza sicurezza nel nostro paese. Questo è importante ricordarselo tutte le volte che vediamo una campagna elettorale che è basata quasi unicamente su questo. E qui non voglio fare i nomi, però ce ne sono state e ce ne sono ancora presenti. In secondo luogo, bisognerebbe finalmente aprire un cantiere di riforma del codice penale epurandolo dagli eccessi punitivi e dalle connessioni con l'autoritarismo dell'epoca quando fu approvato. In terzo luogo, bisognerebbe affrontare la questione criminale insieme a quella sociale e culturale. E quindi, per esempio, dice Gonella, sarebbe buona cosa indagare statisticamente se il calo dei furti negli ultimi anni sia legato all'introduzione del reddito di cittadinanza che ha tolto dalla povertà quote di popolazione. Quindi speriamo che, insomma, che la riforma della giustizia che sta arrivando porti riforme anche su questo. E ora vi lascio con una canzone, Tracy Chapman, Behind the Wall, e noi ci vediamo tra pochissimo. Always come late if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road, and the policeman said, I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, E it won't do rieccoci, no bentornati good dopo to la pausa call musicale. the Il nostro police. venerdì è il venerdì animalesco e questa settimana abbiamo il koala, vero Antonella? Sì, abbiamo un animaletto grazioso che immaginiamo gentile e affettuoso e che forse non è del tutto così. Comunque vi dico che secondo l'Australian Koala Foundation nel 2019 in tutto il paese vivevano più di 80.000 esemplari di koala e dei 28.000 che abitavano nel Nuovo Galles del Sud, una delle regioni più interessate dai vasti incendi, vi ricordate, in Australia c'è stato veramente un disastro enorme. Ne sarebbero già stati dispersi e uccisi più di 8.000. Un gravissimo, durissimo colpo per una specie già considerata funzionalmente estinta e che potrebbe scomparire nell'arco dei prossimi 30 anni. E anche se ridotti a pochissime unità, i koala però sono animali molto chiacchierati. Nell'immaginario collettivo sono veramente degli orsetti dolci da abbracciare. Però sarà veramente così? Ma appunto te lo chiedo perché non è veramente così, non sono dei teneroni koala nel nostro immaginario comune, non è vero? Caterina, forse ti deluderò un tantino, però le sembianze apparentemente tenere dei koala non devono trarre in inganno. Se li immaginiamo come orsetti teneri e dolci, sbagliamo perché cominciamo adesso a sfatare una serie di falsi miti. Una delle convinzioni più sbagliate, ma anche più radicate, non soltanto in Italia ma nel mondo, è che il koala sia strettamente imparentato con gli orsi. Noi diciamo che bello orsetto, che bello orsetto. In realtà no, perché non è affatto parte della famiglia degli ursidi, ma al contrario è uno dei marsupiali arrampicatori. E secondo la classifica scientifica, la specie si chiama Phascolarctos cinereus e in quanto marsupiali, a differenza degli orsi, come sappiamo, che crescono i marsupiali crescono i propri cuccioli all'interno della tasca materna per circa un anno e fino a che i piccoli non sono diventati del tutto autosufficienti. Quindi se qualcuno di noi dovesse incontrare un koala, in realtà deve stare attento perché non sono animali così pacifici. No, poveretti, a parte che devono fare un risparmio energetico spaventoso. Pensa che dormono tra le 18 e le 22 ore al giorno e limitano a pochi minuti le eventuali interazioni sociali tra di loro, tra l'altro. I denti sono affilatissimi, robusti e la masticazione è particolarmente forte, proprio perché loro mangiano gemme e foglie di eucalipto ed è l'attività che li impegna maggiormente. ma possono tornare utili anche in incontri, in occasioni di incontri indesiderati. L'aggressività del koala si manifesta soprattutto, pensa, nei confronti dei cani, perché molto spesso i cani li attaccano, ma sono anche stati riscontrati i casi di aggressione nei confronti di altre specie, anche degli esseri umani, quando si sentono minacciati o sentono minacciata la prole. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, l'aggressività dei koala si sfoga sui maschi rivali proprio perché c'è da gestire il territorio e anche, diciamo, la prole. E per un discorso quindi di territorialità, spesso queste lotte, questi match di wrestling finiscono con morsi alle spalle che continuano fino a quando uno dei due molla praticamente. E sempre per sfatare un altro mito, l'abbraccio del koala all'albero che così sembra così tenero, così dolce, romantico, non lo è? Guarda, sarà anche dolce romantico, ma è un'esigenza proprio di sopravvivenza del koala. Infatti, un paper scientifico pubblicato nel 2014 sulla rivista Biology Letters spiega che il motivo per cui il koala passa la maggior parte della giornata abbracciato sull'albero è proprio un'esigenza fisiologica, proprio perché deve ottimizzare le sue energie. E tra l'altro, sai, il contatto fisico con gli alberi serve anche a rinfrescare il corpo, specialmente nelle giornate più calde, perché gli alberi hanno la temperatura un po' inferiore a quella del corpo. E poi possono in questo modo anche dimezzare la quantità di sudore necessaria proprio alla termoregolazione. E questo poi si combina con un metabolismo lentissimo e con il fatto che la dieta a base di eucalipto non è particolarmente nutriente perché richiede un grosso sforzo di masticazione e digestione, per questo hanno questi denti molto acuminati e molto forti. Stare fermi immobili e abbracciati a un albero serve proprio per non sprecare energie praticamente. Però ti voglio dare anche qualche dettaglio anatomico, perché per esempio un adulto può arrivare a 14 kg di massa e mai meno di 5 e 85 cm di lunghezza. Diciamo che non è proprio l'animaletto carino che ti viene in mente di abbracciare. E poi ha delle dita prensili, degli artigli affilati, se pensi che deve stare aggrappato a un albero. Con una zampata ti può lacerare tranquillamente la pelle. Poi sai, ci sono quelle orecchie belline, arrotondate, pelose, che non incutono un grande terrore, ma anche, diciamo, lo sguardo in realtà sembra uno sguardo pacifico, però sanno come difendersi. E sono animali tendenzialmente solitari, che accettano la compagnia di altri koala soltanto durante l'accoppiamento. E poi odiano essere presi in braccio. Dimentichiamocelo questo sogno di prendere in braccio un koala, perché la ragione è molto importante. La colonna vertebrale è molto fragile e non potrebbe sopportare stress o scossoni violenti. Quindi ricordiamoceli sugli alberi e lasciamoli in pace soprattutto. Intanto, vi faccio ascoltare una canzone di Pharrell Williams, Freedom, che ha avuto un grande successo negli anni scorsi e che è molto allegra. Ascoltiamola insieme. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's right. Rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro Radio TV. Concludiamo l'intervista con Cosimo Orega, con noi da qualche giorno, che ci ha parlato di teatro, di tutte le sue attività che ha scoperto, riscoperto mentre era in carcere. Come sapete, lui è ex boss della Camorra, oggi è ergastolano in semilibertà, ma è una persona veramente un artista a tutto tondo della compagnia teatrale Stabile Assai, che, come vi dicevo, è composta da detenuti, ex detenuti, agenti di polizia penitenziaria e anche comunque operatori e volontari. Cosimo, tra le tue tante performance con la compagnia Sabila Sai, nel 2018 hai debuttato con lo spettacolo Il coraggio della legalità, scritto a quattro mani proprio da te e da Antonio Turco, che è il fondatore della compagnia e responsabile delle attività culturali presso la casa di reclusione di Rebibbia. Come vi è venuta in mente questa idea di lavorare sulla legalità? Beh, io ho fatto, all'inizio ho fatto un percorso con l'ufficio del garante, no? Nelle scuole, nelle carceri, attraverso dei confronti con i ragazzi, per affrontare il tema della legalità. Quindi avevo già un'esperienza del genere. Quando poi mi è venuta l'idea di... Perché una volta ho letto un libro su Borsellino, no? Mi colpì un po' particolare perché... Molti mi domandano perché hai scritto Borsellino e non Falcone. Perché Borsellino, forse perché sapeva che doveva morire, quindi per avere un senso, aveva un senso dello Stato molto forte. Non che Falcone non lo avesse, però tra dubitare e sapere di essere ucciso, due cose diverse, molto diverse. E allora ho preso a cuore quest'uomo e l'ho studiato in tutte le sue sottigliezze psicologiche e non ho portato i fatti di cronaca in scena. Ho voluto portare l'animo dei due uomini e forse per questo siamo riusciti a fare oltre 80-90 repliche, ma nei posti più insensati, anche nelle carceri dove c'erano le persone che si sono macchiate di questo delitto. Ma poi è stata la gratificazione più grande che io stavo in una scuola di sottufficiali di polizia penitenziaria a Cario di Montenotte, invitato dal generale. Ma per portare una mia testimonianza e poi regalare questo spettacolo a studenti e allievi sottufficiali, mentre stavo sul palco con il prefetto e con gli altri, il prefetto mi chiama e mi passa Salvatore Borsellino, il fratello di Paolo Borsellino. È stata un'emozione da troncare le gambe, lassù, mi tremavano le gambe e ci siamo promessi che ci incontreremo. E niente, questo testo mi è piaciuto moltissimo. Ancora oggi lo tengo gelosamente conservato e sto cercando di trovare nuovi elementi affinché posso riprenderlo e riportarlo di nuovo in scena. Sono stati due uomini fantastici. Borsellino un po' più per me, perché io ho scoperto che alla fine lui disse vicino ai figli: ricordatevi, lui aveva il diritto di rispettare le autorità costituite, pur sapendo che all'interno ci fosse il marcio. Però ricordatevi che anche nel peggior dei criminali esiste una scintilla di Dio. Il nostro compito è farla risplendere. Quest'uomo meritava tutto, di essere ricordato per l'eternità, sicuramente insieme a Falcone. E io lo onorerò per sempre. Cosimo, ma è stato catartico per te prendere sulle spalle questo ruolo di Borsellino? Sì, assolutamente sì, perché un ergastolano che ha commesso, sì, ha creato degli orfani, delle vedove, e poi medesimarsi nei ruoli di un uomo così, ho dovuto fare un percorso dentro di me, non solo di scrittura, ma mentre lo scrivevo, elaboravo dentro di me questi cambiamenti inquietanti, uscivo dalla scrittura con un animo inquieto, una continua lotta tra il cervello e l'animo, quindi ne uscivo stravolto. Poi, certo, sulle tavole, sul palcoscenico, erano momenti che dimenticavi tutto, eri nel personaggio, però quando ne uscivi poi ti sentivi un attimo inquieto perché tu avevi dato la parola a un grande uomo, qual è stato, però tu eri questo. Capisci lo scontro qual è stato, però questo mi ha segnato molto, mi ha maturato molto e ha maturato fortemente il senso dello Stato, che prima era leggermente, sai, con la politica di oggi non sempre, però il senso dello Stato è tutto, tutti dovremmo impadronircene e tenerlo stretto tra di noi, e forse le cose poi cambieranno quando maturiamo questo sentimento. Parole fortissime che condivido in pieno e con questo lancio un'altra canzone e ci rivediamo tra pochissimo con te. Troppi mani in gol, a nessuno eritto no. Rieccoci di nuovo dopo la pausa musicale, concludiamo la nostra chiacchierata con Cosimo che ci ha fatto compagnia in questi giorni, ti ringrazio tanto, davvero tanto per questo. Raccontandoci un po' di te oggi, la cultura è ciò che ti ha permesso di non arrestarti mai, di non buttarti via soprattutto, di non considerarti uno scarto e, mentre eri in prigione, ma sappiamo che per tutte le persone detenute non è proprio così. E quindi io ti chiedo cosa consiglieresti oggi a chi ha il tuo stesso reato sulle sue spalle, quali sono magari i primi passi che potrebbe fare? Ripeto... È difficoltoso per me. Io posso portare la mia testimonianza, perché poi ogni detenuto vive il carcere in una maniera diversa, però quello che mi sento di dire fortemente è che noi nella sfortuna siamo fortunati, abbiamo tempo a disposizione. Questo tempo dovremmo usarlo e coltivarlo, non lasciarci andare, coltivarlo con la lettura, il libro, avvicinarsi all'arte, avvicinarsi soprattutto, la lettura porta ad arricchire il cervello di dati creativi. Lasciamo perdere le cronache nere, i giornali, che sono sempre di dati negativi, e poi lasciamo andare il passato e non ipotechiamo un futuro che non esiste. Soffermiamoci sul presente e cerchiamo di dare un senso a quel presente, anche se in un luogo senza senso. Però è lì la forza nostra, la forza di noi ristretti perché o per sbaglio, perché abbiamo commesso dei reati che dobbiamo stare là dentro. Ecco, dobbiamo essere determinati, costruiamo, non arrendiamo, non lasciamoci andare, perché se ci lasciamo andare nessuno ci darà la mano. Io quando vivevo da camorrista non ho mai steso la mano e mai mi è stata data. Nel momento in cui ho deciso di voltare pagina, di riacchiapparmi, di dare un senso alle mie giornate, di non incattivirmi con la crudeltà del carcere, liberarmi dell'odio che lo circonda, e ho steso la mano, vi posso assicurare che dall'altra parte c'è stata la connessione, c'è stato l'aiuto. Ho scritto un romanzo sulla mia vita, mi sono confrontato con una psicologa che prima non avevo nessun tipo di rapporto, mi è stato di aiuto a scavarmi dentro, anche nei momenti difficili. Non sono stato più solo nel carcere. Il carcere, quando un detenuto poi lo mostra, certo, ci sono delle situazioni imbarazzanti nelle carceri, io lo capisco perfettamente, ma dobbiamo essere noi, i detenuti, dobbiamo essere determinati a insistere che siamo persone, che hanno sbagliato, sì, ma che hanno una loro dignità e hanno nel loro animo la voglia di un riscatto sociale per la loro famiglia e soprattutto per la società. E allora io ti chiedo anche come si chiama il libro che hai scritto, dove lo si può trovare magari? Allora, il libro che ho scritto si chiama proprio Suminu Falk, il falco, come mi chiamavano fuori, Storia di un ergastolano. Anche se è finito il contratto, ma ne ha stampato un sacco di copie, 8 edizioni, la Robin. Invece da questo libro, oggi è uscito un bellissimo articolo sull'Osservatorio Romano, che ho pubblicato anche su Facebook, e è uscito fuori un bellissimo testo teatrale con un'attrice fantastica, Daniela Marazzita, che funge anche da regista, e quindi è la mia storia in un giorno, in una notte. Tutto avviene in una notte ed è un percorso accompagnato con Dante Alighieri per riacchiapparmi e per mostrarmi. E abbiamo debuttato, è andato bene a Castelfranco Veneto, poi il Covid ha bloccato un po' di tutto e adesso stiamo per andare di nuovo in scena con questo testo che non vedo l'ora che riesce a partire, con una produzione molto importante dietro, che chi è di scena, di Valerio Esposito e Vincenzo Salemme, comunque siamo fiduciosi che possa decollare al Ghione di Roma. Ultima domanda, so che sei di ritorno da uno spettacolo in Emilia Romagna, dove potremo ancora vederti? C'è qualche data? Adesso veramente è tutto il Antonio Turco, che queste date, siamo stati in Emilia Romagna a Modena a fare uno spettacolo sulla violenza di genere, uno spettacolo molto, la compagnia Sabile Assai ha tra le sue caratteristiche questa forma, di portare testi sociali molto forti, a volte impopolari, però è questa la cosa. Adesso abbiamo portato questo testo che abbiamo debuttato davvero bello, poi a Butrio, poi non so adesso dove dovremmo andare, le date le conosce lui, no? Però so che ci sono 7-8 date ancora per l'Italia e quindi per le scuole, per i ragazzi, per far comprendere che cos'è la violenza di genere, il femminicidio, la stessa violenza che poi ricade su noi stessi. Comunque, uno spettacolo molto tosto, molto duro, che però sta riscontrando un grande interesse. Poi quando Cosimo, sarà lo grazie. sapete. Grazie di cuore. Allora, mi premurerò di darne io informazione in rassegna stampa quando guardo le notizie. Ti ringrazio tanto, è stato un piacere e un onore averti qui e spero che potrai essere di nuovo tra noi. Grazie a voi, l'onore è stato mio e permettimi di salutare tutti i detenuti che ci ascoltano in questo momento. Ragazzi, non mollate. Grazie, a prestissimo. Ciao. When I was young, younger than before, I never saw the truth hanging from the door. And now I'm only seeing face to face. E siamo arrivati ai saluti di fine puntata. Vi ricordiamo le nostre rubriche oggi, che è venerdì, con Islam, religione e civiltà, e a seguire il CPA di Ferrara con Sonny Boy. E domani sempre le nostre rubriche, il Teatro del Pratello, parliamo di buddismo e la Cappellania. Per la giornata di domenica invece abbiamo le rubriche musicali con note libere e la rubrica di diritti al punto dei ragazzi del Poggeschi. Vi ricordiamo di iscriverci, redazione liberidentro @gmail.com oppure per inviarci una posta, una lettera via San Mammolo 2 40 136 Bologna. Ci rivediamo lunedì, un saluto da me, da Antonella Cortese e da Enea Flacco. Grazie, alla prossima. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.